esperienza, anzi ancora là quasi, no? Con la testa sicuramente. E ci sembrava soprattutto perché è una cosa molto particolare che, insomma, cioè isolarsi, lavorare da agricoltore in cantina, quello che è, può sembrare una soluzione semplice di rintanarsi, fare il proprio lavoro, non avere contatti con il mondo esterno. A molti può sembrare che un isolamento dalla realtà. In parte lo è difficile trovare un po' le declinazioni per fare anche qualcosa di utile per cambiare un po' le cose. Andare a farlo in un territorio conteso, critico e schizofrenico, immagino che sia addirittura ancora più complicato, molto più profondo come scelta. Soprattutto perché oltre al fattore della passione ci deve stare anche un altro fattore, che è quello della forte spinta di essere coscienti di essere in un contesto molto più ampio, che è molto difficile da determinare e forse anche molto difficile da capire per certi versi. Però ci sembrava molto importante renderlo, far sì che oltre Andrea anche gli altri ragazzi che hanno lavorato questo progetto, che stanno lavorando questo progetto di Cremisan in Palestina, potessero raccontarsi e raccontare le proprie esperienze, quello che sentono proprio vissuto, perché solo così ci si può rendere conto esattamente quello che cosa vuol dire essere in un territorio sotto occupazione e cosa vuol dire vivere ogni giorno in una condizione del genere, e allo stesso tempo cercare di fare un lavoro che sia di un risvolto sociale e sia un lavoro vero e proprio, che in questo caso è quello di lavorare in un'azienda vitivinicola. Adesso la parola a loro.